Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Spero che un accordo tra la Grecia e i creditori sia in vista nei prossimi giorni o settimane. Ha parlato così pochi istanti fa il ministro delle finanze ellenico Yanis Varoufakis, che è nuovamente a Bruxelles. Il ministro greco ha poi aggiunto: vedo semi di frammentazione però nell'Unione Europea. E a intervenire questa mattina anche il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Si sta allargando a macchia d'olio il dibattito sul futuro dell'Unione Europea e soprattutto c'è una domanda che emerge. Dopo la crisi dell'euro esiste una minaccia di crisi politica europea? Così si pronuncia il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Gli sviluppi in Grecia, come la scelta del Regno Unito, decideranno sul futuro dell'Europa. L'Unione Europea si trova ad affrontare un anno eccellente dal punto di vista elettorale. In 10 dei 28 Stati membri un nuovo Parlamento sarà eletto nel 2015. Il consenso pro-europeo in politica si trova ad affrontare una nuova prova. Una possibile uscita della Grecia, cioè la Grexit, o della Gran Bretagna. La Brexit solleva la questione della sostenibilità dell'Unione Europea, ma non deve essere un dibattito accademico. Gli fa eco il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. Grexit è un'opzione. Grexit non è un'opzione, è da escludere per la visione di Europa che ho. E sottolinea nei suoi discorsi che abbiamo bisogno di più Europa. Lo sviluppo economico in Europa è colpito anche dal conflitto militare in Ucraina e in altre parti del mondo. E poi c'è la catastrofe dei rifugiati in Africa e Medio Oriente e la situazione degli sbarchi. Per questo ci vuole più Europa, secondo Juncker, ma anche un'Europa più politica. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'avete sentito, svolta in vista sul fronte immigrazione, il governo libico di Tripoli ha deciso di pattugliare con uomini armati i punti da cui partono i migranti clandestini che salpano nel Mediterraneo. La misura è uno dei 5 passi che l'esecutivo al potere nella parte occidentale del paese annuncia, ma fa anche appello all'Unione Europea. Il governo di salvezza nazionale di Tripoli, si legge, conferma l'importanza della cooperazione con Bruxelles nella lotta contro il fenomeno delle migrazione clandestina dalla Libia ed è, si legge, al momento impegnato ad aprire via di mutua cooperazione con l'Unione Europea. Anche l'Italia su questo torna a sollecitare Bruxelles. La condivisione europea delle operazioni in mare per il salvataggio dei migranti è un risultato importante, ma non diminuisce la pressione sul nostro paese, ha detto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, spiegando che se e quando le navi di altri paesi europei che ora partecipano a Triton recuperano dei migranti, li trasportano in base al concetto di porto più sicuro e vicino, i porti sono solo quelli italiani. Non è xylella, le analisi sulla pianta di ulivo sospetta trovate in Liguria hanno dato esito negativo. Comunicazione già arrivata stamani alla Commissione Europea, inviata dall'Italia. A Bruxelles intanto si torna a discutere anche dell'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Continuano a rilento le trattative tra Unione Europea e Stati Uniti su un accordo di libero scambio. Questa settimana la commissaria al commercio Cecilia Malmström ha proposto soluzioni per smorzare le tensioni sull'ipotesi di introdurre nel trattato clausole che permettano di risolvere con l'arbitrato controversie tra governi e imprese. L'idea non piace a molti europei, ma è chiesta a gran voce dal negoziatore americano. La signora Malmström ha deciso di proporre la nascita di una corte internazionale di arbitrato. Non è chiaro ancora se sotto l'egida delle Nazioni Unite o meno. A tutta prima questa proposta sembra piacere, smorza le polemiche e riporta su un terreno neutrale le controversie tra paesi e imprese. La preoccupazione di molti in Europa, infatti, è che classici arbitrati avvantaggino le ricche multinazionali americane. Della questione parleranno oggi i governi europei in un consiglio dedicato al commercio. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E si potrebbe riaprire, a margine di tutto questo, anche la discussione sul Made In. La Commissione proporrà infatti al Consiglio di arrivare all'introduzione di una normativa almeno per alcuni settori affinché sui prodotti importati dai paesi terzi sia indicata chiaramente la loro provenienza. Un provvedimento che sta molto a cuore all'industria italiana, ma al quale molti paesi nordici si sono sempre opposti. Al via ora il negoziato con il Consiglio, i settori a cui potrebbe essere applicata la normativa sarebbero almeno inizialmente 3: tessile, calzature e ceramica. Ci fermiamo qui, le 14:06. Come sempre, l'Europa vi aspetta questa sera a Effetto Notte. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.